Ovviamente si tratta di un'occasione storica e proprio perché è un'occasione storica e difficilmente ripetibile bisogna provare a coglierla per il verso giusto. Io vedo due rischi. Uno purtroppo si è già concretizzato, nel senso che ovviamente non sto parlando degli investimenti PNRR perché ancora non sono materialmente in campo, ma di certo la ripresa economica, la ripresa del PIL, questa regione è stata, diciamo così, in testa, in cima alle classifiche nazionali con un più 6,9% di prodotto interno lordo, non solo non si sta trasformando in più occupazione, perché io non guardo, sono abituato a non contare le teste degli occupati, ma le unità lavoro equivalenti e le ore lavorate, che sono due cose un pochettino differenti. Ma soprattutto, quale occupazione? Allora, gli ultimi dati di cui io ho memoria si riferiscono in questa regione a settembre dell'anno scorso, sono dati Istat, il saldo occupazionale è più 30.000 in questa regione, quindi tutti quanti dovremmo dire bene, abbiamo recuperato una parte significativa dei posti di lavoro persi nel 2020, peccato che se vado a guardare i saldi per tipologia contrattuale, quel più 30.000 si traduce in più 300 rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E se poi guardo anche le dinamiche salariali, devo verificare che addirittura ci sono state delle riduzioni in termini di salario, un aumento del part-time e del part-time involontario e guarda un po' le figure maggiormente coinvolte continuano ad essere giovani e donne. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questa regione nella quale le cose vanno meglio che altrove, in questa regione il valore aggiunto è cresciuto, il PIL è cresciuto, ma nulla si è trasferito sui salari e sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è il primo rischio. Quando arriveranno le risorse del PNRR, cosa fanno? Serviranno ad alimentare ulteriormente questa dinamica e questa tendenza o li usiamo per fare anche un po' di equità, ad esempio applicando i contratti nazionali di lavoro, ad esempio privilegiando i rapporti di lavoro stabili, ad esempio privilegiando una qualità del lavoro maggiore rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Il secondo rischio che vedo è quello di una riduzione del perimetro pubblico, perché mentre ci sono grandi risorse per investimenti infrastrutturali, penso al sistema educativo e di istruzione 06, penso alle scuole, penso alla sanità, penso al sociosanitario, non è previsto oggi e non è previsto neanche per domani un equivalente in termini di spesa corrente. E cioè, per capirci, ci saranno i soldi, le risorse per fare i nidi, ma non ci saranno le risorse per assumere le persone che poi dovranno lavorare. E questo può essere replicato n volte, anche per la sanità, per capirci. E questo implica un rischio enorme, implica il rischio che si vada ad una privatizzazione non dichiarata. E se ci pensiamo, sarebbe in grandissima contraddizione con tutte le cose che ci siamo dette in questi lunghissimi due anni. E cioè ci siamo detti che quando piove, anzi quando diluvia, è la sanità pubblica che apre l'ombrello, perché quella privata lo chiude. E ci siamo detti che è un sistema di istruzione pubblico è quello che garantisce la riduzione anche delle disuguaglianze e l'aumento delle opportunità. Ecco, se noi non stiamo attenti, se noi non stiamo attenti, quello è il percorso che si apre. E da questo punto di vista io credo sarebbe necessario da parte della politica, di chi ha responsabilità di governo, come dire, dirlo in esplicito. Cioè noi abbiamo bisogno di accompagnare il grande processo di investimento, che probabilmente sarà irripetibile per tanto tempo, accompagnare a questo processo anche un altro investimento che è sul perimetro e il ruolo del pubblico, che non può essere semplicemente la piattaforma sulla quale appoggio i bandi, le gare per far costruire o per far investire nel territorio. Per carità, è importante, non lo si è fatto per tanti anni, ma è una misura necessaria ma non sufficiente. Da questo punto di vista io credo noi dobbiamo stare attenti, perché abbiamo sulla testa una spada di Damocle pesantissima, che è data dalla mancata copertura dei costi straordinari Covid per quel che riguarda il sistema sanitario pubblico, e in questa regione questa cosa pesa tantissimo. Si è già dato fondo a tutte le riserve e il 2022 lo facciamo sostanzialmente ad occhi chiusi, ad occhi bendati. Questo è un altro aspetto di pericolo sul quale con la regione Emilia-Romagna direi siamo esplicitamente alleati nella battaglia per portare a casa più risorse e una diversa contabilizzazione delle spese straordinarie Covid. Io credo, immagino che anche i comuni, gli enti locali, i distretti a partire dall'ANCI saranno con noi in questa battaglia. Ultimo rischio, se devi spendere tanti soldi in poco tempo, gli appetiti della criminalità organizzata crescono in maniera esponenziale. Noi dobbiamo mettere in campo quegli strumenti che ben conosciamo, che ad esempio abbiamo messo in campo nel 2012 dopo il terremoto, perché lì siamo stati capaci di tenere ai margini della ricostruzione la criminalità organizzata, come è stato ampiamente dimostrato dai processi a partire dal processo Emilia. Abbiamo bisogno di fare lo stesso anche ora.